la comma bucchella furture, piccirinella furture, che dici che fai e che pensa maraia furture, i momori momori momori momori momori momori momori momori per te, quanto è bella famore con te, ah, quanta volta ti voglio passare, quanto è bella famore con te, ah, quanta volta ti voglio passare. Schiocca de rose chic furture, che tiene mucca chissà che tocca furture, che dici che fai e che pensa maraia furture, i momori momori momori momori momori momori momori momori per te, quando è bella fa amore per te, ah, quando a volte te voglio passare, quando è bella fa amore per te, ah, quanta volta te voglio passare, quanta è bella famore con te, ah, quanta volta te voglio passare, quando è bella fa amore con te, ah, quanta volta te voglio passare, quando è bella fa amore con te, ah, quanta volta te voglio passare, quando è bella fa amore con te, ah, quanta volta te voglio passare.